cose mie brave, non più duolo o timor. Speriam, ben tosto saremo io glorioso e voi contente. Ma la Gigi il promise, egli non mente.